Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buongiorno, sono Nino Ciravegna, Sole 24 Ore, benvenuti a Magazine 24, ben svegliati. Incominciamo con la lettura dei settimanali che si trovano in edicola in questi giorni. Comincerei dall'Espresso. L'Espresso dedica la copertina a Scortati d'Italia. Dalle più alte cariche dello Stato a magistrati, sindaci e sindacalisti, un esercito di uomini e auto blindati vigila sulla loro sicurezza. Fa una lunga inchiesta su questa allarme sicurezza, su questa blindatura dei vertici dello Stato, in cui sono coinvolti comunque 1000 auto e 2400 agenti. Sono le forze schierate al Viminale per proteggere 585 personalità. E poi a questi si devono aggiungere gli uomini della tutela del Papa, del Capo dello Stato, del Premier, un esercito di angeli custodi. E tra tutti questi numeri evidenzia anche una cosa molto particolare e per certi versi sconvolgente, quando dice: dove c'è un carabiniere deve anche esserci un poliziotto, tutto in duplice copia, in nome di un concetto arcaico di visibilità istituzionale. Così la protezione del Quirinale, scrive l'Espresso, diventa uno specchio di un antico problema, il costante sovrapposizione tra forze dell'ordine, che è una situazione abbastanza ridicola e singolare, quella che ci debba essere. Una volta nelle barzellette si dicevano due carabinieri, uno che sa leggere e scrivere, qui adesso ci deve essere un carabiniere e un poliziotto per fare sostanzialmente lo stesso lavoro. Proseguendo nella lettura dell'Espresso, troviamo un articolo dedicato a Venezia. Venezia val bene una mostra, in cambio dei fondi per il Palazzo del Cinema via libera il progetto per il nuovo Lido, abitazioni e la darsena più grande d'Europa, tutto con il metodo dei grandi eventi. Il metodo dei grandi eventi, ricordo, è quello di fare lavori pubblici senza gare d'appalto, proprio per tagliare i tempi, ma questo è un metodo che permette di fare le furbate come sono state fatte all'isola della Maddalena e in altre occasioni, poi finite nel mirino della magistratura. Ed è anche singolare questa cosa, che sia stata decisa la sera del 30 dicembre, mentre l'Italia si interrogava se puntare sul Capitone o sul Cotechino. Con l'Antichi è stata rifatta la mappa del Lido di Venezia, appunto con questa darsena che prevede 1500 posti barca, 700 posti auto, ristoranti, eccetera, eccetera. Insomma, il Lido cambierà sostanzialmente volto con un sistema molto poco chiaro e molto poco perseguibile in altri posti. Sempre con l'Espresso dedica un lungo articolo sulla Carla Bruni della Cina, cioè la First Lady, che è la moglie del vicepresidente che tra un anno diventerà presidente. La cosa singolare è che questa signora, Peng Liyuan, è una cantante molto famosa nel suo paese, ma adesso il regime sta incominciando a oscurarla perché non vuole che, l'unica stella che brilli sia il presidente e non la sua moglie. Un'altra storia molto bella, con un servizio fotografico che definirei eccezionale, dell'Espresso, è sulla guerra dell'acqua. Israele e Palestina stanno vivendo la peggior siccità degli ultimi 40 anni e così diventa più acuto il conflitto tra i due popoli. Le organizzazioni internazionali, scrive l'Espresso, accusano la spartizione della più preziosa delle risorse del Medio Oriente e tutto a beneficio dello Stato ebraico. Un servizio fotografico molto bello che evidenzia anche il degrado del Giordano, lo storico fiume, che dopo migliaia di anni si sta prosciugando sia per colpa della siccità, ma anche delle guerre e delle rivalità tra gli stati, a cominciare dalla Siria che devia le acque a Israele che se ne accaparra la maggior parte, la stragrande maggioranza. Una notizia un po' più curiosa invece: consumi alla riscossa, social network e siti specializzati danno agli acquirenti più vantaggi e nuove opportunità di scelta, è un mercato in forte ascesa non solo negli Stati Uniti e potrebbe dare una svolta all'economia, anche se in Italia il commercio online è ancora poco sviluppato rispetto agli Stati Uniti. Concludiamo con l'Espresso, con una guida a poco ma il meglio, ci illustra tutta una serie di opportunità di viaggi che si possono fare adesso, finita la stagione natalizia, che si possono fare in mete esotiche come Cuba, Tunisia, Egitto o anche San Francisco, con prezzi molto più bassi e che arrivano addirittura, sconti che arrivano addirittura al 40%, un modo per fare vacanza anche lontane dalla calca di Natale. Proseguiamo la lettura con Oggi, il settimanale che in edicola con anche la guida TV Oggi. Dedica un ampio servizio sulla sfida dell'Unità d'Italia. Come sapete, quest'anno si festeggiano i 150 anni dell'Unità. Ieri c'è stata la festa della bandiera a Reggio Emilia. Il servizio è un lungo servizio in cui vengono intervistati una serie di personaggi, evidenzia anche le differenze che ci sono soprattutto tra nord e sud, che vanno dall'età media, che è 44 anni nel nord e 41 nel sud. Si usa anche l'uso di internet, che è molto più alto ovviamente nel nord rispetto al sud, mentre invece il sud si vedono molto più gli amici rispetto alle regioni centro-settentrionali. Il fatto stesso, per esempio, di mangiare fuori a pranzo, probabilmente per motivi di lavoro, nel sud è molto inferiore rispetto al nord. C'è tutta una serie di parametri diversi tra nord e sud, in cui la domanda è: ma l'Italia è mai stata davvero unita? Un altro servizio interessante di oggi, che sicuramente può far sognare molte persone, è AI come agricoltura, inchiesta letteralmente sul campo, sul secondo mestiere più antico del mondo. Evitiamo di chiarire quale sia il primo mestiere più antico del mondo, e parla adesso, vi racconto quanto dura la vita dei contadini. Il lavoro sulla terra, elogiato dal Papa, attira sempre più ex manager e giovani coppie, scrive Oggi, che poi si scontrano con problemi pratici e intoppi burocratici, ma c'è chi l'ha fatta. Un'inchiesta divertente per certi versi, perché racconta esperienze di ex bancari che si sono ritirati da Milano per dedicarsi a produrre il miele, oppure c'è una storia di un signore che si è messo a produrre peperoncini non in Calabria, che è l'area più famosa, ma in Emilia Romagna, oppure chi alleva cani da tartufo o alle olive. Un modo che tra l'altro evidenzia da un lato la difficoltà di abitare nelle grandi città, a fare lavori frustranti, ma dall'altro non permette di sognare, ma poi appunto, come dicevano, si trovano dei problemi pratici molto, molto forti, che spesso uno non aveva preventivato. Parla anche di chi si è dedicato all'agriturismo o cercato di integrare l'attività prima e dopo. Sempre su Oggi troviamo un servizio molto bello, su Magico Click. Il titolo è L'uomo che sussurra i cigni, e racconta l'esperienza professionale di un giovane fotografo di Aosta che passa 6 mesi all'anno all'estero per fotografare animali. Per uno scatto passa ore sul ghiaccio, perché Stefano Lindmeiner è un vero artista della natura che conquista le pagine più ambite per i fotografi, quelle del National Geographic, e fa vedere delle fotografie molto belle sui cigni, ma non solo, in cui il fotografo confessa: ho studiato zoologia, ma gli animali vanno vissuti da vicino. E racconta anche come, lavorando all'estero, si fa sempre accompagnare dalla moglie e fa vedere fotografie dalle isole Galapagos all'equatore, eccetera, eccetera, e anche con un lungo elenco delle specie che potrebbero sparire, che il nostro fotografo aostano ha immortalato prima del disastro ambientale. Concludiamo la lettura di oggi con un vademecum per i consumatori, per i diritti dei consumatori sulle offerte speciali. Parte la stagione dei saldi e Oggi ricorda tutti i diritti che hanno i consumatori quando approfittano di queste occasioni di fine stagione, dall'utilizzo della carta di credito al rischio di truffe o al rischio che vengano messi in vendita pezzi difettosi o di annate precedenti. Tutto quello che bisogna sapere prima di approfittare di queste offerte speciali. Concludiamo questa prima parte di Magazine 24 con Impresa, il mensile del Sole 24 Ore dedicato al management. Anche in questo caso, come gran parte dei rotocalchi e delle riviste che si trovano in edicola, si parla del 2011, e come fare per vivere meglio questo 2011 o quali sono gli obiettivi che uno dovrebbe porsi. In particolare l'impresa fa una lunga analisi su cosa dovete fare per avere successo. I consigli di Friedman Malik a manager e professionisti scrive: anzitutto stilate una lista di compiti e obiettivi mantenendo la massima oggettività. Concentratevi su poche priorità e perseguitele con senso del dovere e altruismo. Sono consigli che vanno bene per i manager, ma possono valere anche per tutti noi. E sono consigli dati da questo professor Malik, che è uno dei massimi esperti di management e autore di un modello manageriale olistico, scienza di cui onestamente ignoravamo l'esistenza, fondato sulla scienza della complessità come la cibernetica, la teoria dei sistemi e la bionica. Questo Malik ha scritto numerosi libri che sono pubblicati sul Sole 24 Ore, gli appassionati potranno trovarli. Un altro servizio dell'impresa abbastanza divertente e molto curioso è su: e se avessimo brevettato la pizza? Proprietà industriale e intellettuale sotto analisi. In Italia gli strumenti di tutela. In Italia gli strumenti di tutela migliorano, ma i brevetti depositati rimangono bassi e legati più alla meccanica che ai settori trainanti. Evidenzia questo lungo articolo come l'ufficio dei brevetti in Italia sia poco organizzato, abbia pochi fondi e ci sia anche una scarsa mentalità in questo settore, mentre in America addirittura è inserito nella Costituzione ed ha una lunga tradizione, tradizione avviata addirittura dal presidente Abramo Lincoln, che diceva: il brevetto è l'elemento che rafforza con la fiamma dell'interesse la luce della creatività. Magazine 24. Bentornati su Magazine 24. Nella prima parte abbiamo parlato dell'espresso di oggi dell'impresa. Adesso proseguiamo con Panorama, che è una copertina molto, molto forte, molto shock. Lavoro offresi, tutti i mestieri che garantiscono un posto ma che le imprese non trovano. Allora fa questa lunga inchiesta sulla disoccupazione, resta alta, scrive Panorama, pure le imprese non riescono a coprire migliaia di posizioni, mancano ottici, chimici, biotecnologi, ecco chi cerca chi. Nella classifica di Panorama sui mestieri che offrono molte opportunità soprattutto ai giovani ma che non vengono occupati, siccome mette al primo posto gli ottici, poi i periti chimici, i medici per l'industria farmaceutica, le biotecnologi, gli addetti all'accoglienza alberghiera, farmacisti, disegnatori tecnici. Si vede che si cercano professionalità elevate con preparazione universitaria ma anche ragazze a livelli di diploma. Ed è un vero dramma questo, perché vuol dire che la scuola e l'università non riescono a indirizzare i giovani, non riescono a proporre alternative vere per il futuro, soprattutto in vista del, ricordando il fatto che ieri l'Istat ha diffuso i dati sulla disoccupazione giovanile che continua a crescere. E una delle cose che stupisce leggendo questa inchiesta di Panorama è anche un'altra: che si cercano specialisti, si cercano laureati nelle facoltà scientifiche e robe del genere, ma ci sono molte aziende che cercano anche tecnici filosofi. In questo periodo, probabilmente sull'onda dell'effetto Marchionne, che ricordo è laureato in filosofia, ci sono molte imprese che cercano dirigenti, manager, che sappiano affrontare problemi complessi e si rivolgono a quelli che una volta erano definiti disoccupati sicuri come i laureati in filosofia. Adesso si è capito che chi studia filosofia è abituato ad affrontare temi così complessi che poi, se ha un minimo di senso pratico nella vita di tutti i giorni, potrebbe avere successo anche in azienda. Oltre a questo elenco di professioni che offrono grandi potenzialità di impiego, Panorama prosegue poi con una lunga e articolata inchiesta sul caso Battisti, che in questi giorni, da fine anno, ha tenuto banco su tutti i giornali dopo che il presidente brasiliano Lula ha negato l'estradizione. E Panorama affronta questo caso molto spinoso con due testimonianze. La prima è di Pietro Mutti, un ex terrorista e fondatore dei PAC, i proletari armati per il comunismo, che racconta chi era Cesare Battisti, il suo compagno di, non so come chiamarlo, di lotta, di terrorismo. Il vecchio compagno di attentati dice che il Brasile ha deciso di proteggere Battisti, anche se lui non lo definisce un estremista, un terrorista, ma un semplice malavitoso che però è stato più furbo di tutti noi. E racconta i casi in cui, la storia di Battisti dall'inizio, quando nel 72 è stato arrestato per furto, fino a quando ha avuto la, virgolette, conversione alla lotta politica, e poi quando è fuggito. E poi ha trovato una serie di protezioni, prima in Francia e poi in Brasile, che gli permettono di evitare gli ergastoli a cui è stato condannato in Italia. La seconda testimonianza è di Luigi De Liguori. Il titolo è Dice io che dovevo essere ucciso. Questo De Liguori oggi ha 71 anni e dopo una lunga carriera da pubblico ministero è in pensione a Lecce, ma nel 1979 i PAC, che è la formazione terroristica in cui militava Battisti, avevano deciso di sparargli a Milano per punirlo delle sue inchieste sugli avvocati di Soccorso Rosso e sull'omicidio del gioielliere Torreggiani. Poi l'agguato saltò all'ultimo minuto. E Liguori dice, nell'ottica di Battisti e dei suoi compagni, il mio omicidio aveva una logica militare. Certo, è una rivoltante, ma comprensibile in quegli anni terribili. Panorama fa anche un ultimo servizio su questo caso Battisti, su Come Chic Cesare sulla Senna, raccontando tutti i suoi, come si può dire, fan, anche se è una parola difficile, brutta, suoi protettori o i personaggi che sono scesi in campo per difenderlo, come se l'Italia fosse una repubblica da terzo mondo, un regime dittatoriale, non uno stato civile che si basa sul diritto, e sono molti schierati in sua difesa, personaggi pubblici, intellettuali, perfino Carlà, la moglie del Carla Bruni, la moglie del presidente Sarkozy. Un altro servizio che vi segnalo su Panorama è Cartoline da Haiti, con un servizio fotografico terrificante, nel senso che riporta immagini di desolazione, di disastro, di povertà e di abbandono, soprattutto dei bambini, che è terribile. Questo cartolino da Haiti dice: i soldi degli aiuti arrivano con il contagocce, il cibo scarseggia e l'acqua porta il contagio. In strada scende la rabbia. Ma negli ospedali internazionali continua la mobilitazione per cercare di salvare questo paese, le vite soprattutto dei bambini di questo paese che è stato distrutto da un violentissimo terremoto. E Panorama anche racconta di un'azienda, la Vernier, che ha messo a disposizione 1.000 gioielli per finanziare la fondazione Rava, che è stata molto attiva, probabilmente è stata la ONLUS italiana più attiva, che si è mobilitata maggiormente per Haiti e soprattutto per i bambini di Haiti. E quindi c'è questa iniziativa che parte adesso per cercare di continuare a mantenere viva l'attenzione su un paese in cui la povertà è, penso, ai massimi livelli. Probabilmente Haiti è il paese con il più alto indice di povertà di tutto il mondo. Un'ultima, un paio di cose ancora su Panorama. Panorama ha un servizio molto inquietante sull'anoressia dopo la scomparsa della modella Isabel Caro. I disordini dell'alimentazione sono in crescita, soprattutto tra le donne mature, spiega Panorama, superando il mito in cui l'anoressia si colpisca solo le ragazzine, cioè, donne mature parla, che seguono un modello stereotipato di bellezza, illudendosi di poter fermare i segni del tempo, e invece creano un problema sociale che ormai colpisce il 5% degli italiani, un dato incredibile. E questo servizio racconta anche l'esperienza di una signora milanese di 43 anni con due figlie, che dice: ho avuto un problema molto forte quando ero ragazza, mangiavo, poi vomitavo tutto, che poi sembrava superato, ma è ricomparso con violenza e non ho più detto niente a nessuno. Ho smesso di curarmi, non ho detto niente né al mio marito né alle mie figlie perché ero privo di autostima, racconta questa signora. Comprare i pantaloni di taglia 36 era l'unica soddisfazione, che è una cosa, una soddisfazione direi molto poco. Le fotografie sono inquietanti in questo caso perché non sembrano, non raccontano più di bellezza o di stare in forma, ma di malattia gravissima. Eccoci, l'ultimo appuntamento di oggi è con Astra, questo mensile che durante l'anno vive normalmente, ha i suoi lettori appassionati ma niente di più, che invece col numero di gennaio fa il grande botto perché un mucchio di lettori vogliono sapere cosa accadrà quest'anno. E questo numero, un corposo numero di Astra, dalle previsioni per tutto l'anno, segno per segno, ascendente per ascendente. Ma c'è anche un altro servizio più divertente, più curioso. Sul 2011 sono un po' i segni, le previsioni astrologiche per i grandi personaggi. Devo dire che secondo Astra il 2011 sarà positivo per Gianfranco Fini, che dice che è incominciato un nuovo ciclo per il fondatore di Futuro Libertà, mentre sarà negativo per Silvio Berlusconi, piuttosto critico sul piano politico, scrive Astra. Sul piano politico il periodo da fine aprile a fine agosto, a causa degli aspetti difficili di Plutone, Nettuno e Urano. Dubito che Berlusconi segua queste previsioni, probabilmente avrà il suo astrologo personale, così come ce l'hanno tanti big, a incominciare da Gianni Agnelli, che utilizzava Grazia Mirti, che ha anche scritto per anni, ha scritto sul Sole. Ma diciamo che questo ok per Fini e no per Berlusconi, sicuramente un minimo di allarme lo creerà nelle forze della maggioranza, o forse no. Poi ci sono anche le altre previsioni: negativo per Bersani, positivo per Nichi Vendola. Sono tutte cose che dovremo vedere, e tant'è che Astra ha stilato una piccola classifica sulle cose che abbiamo azzeccato e le cose che abbiamo toppato nel 2010. Tra le cose principali che hanno toppato nel 2010 era la ripresa economica nel secondo semestre del 2010, ripresa economica che non abbiamo visto e che, secondo il ministro Tremonti, la crisi non è finita, quando uccidiamo un mostro ne compare un altro, quindi continuano le difficoltà economiche. E avevano previsto anche un balzo in avanti del mercato automobilistico, le vendite di auto in Italia per la prima volta da 14 anni, se ricordo bene, sono calate sotto i 2 milioni di vetture nuove, quindi direi che non hanno azzeccato assolutamente niente in questo. Mentre invece dicono di aver azzeccato, dicono perché noi ovviamente non ci ricordiamo quello che avevano scritto all'inizio del 2010, parlavano di decollo di nuove tecnologie, questo è plausibile, ogni anno arrivano nuove tecnologie, quindi non ci vuole una grande conoscenza degli astri per capire questo. Il risveglio dei movimenti di protesta giovanili, in effetti le proteste per la riforma delle università ci sono stati. I conflitti tra potere politico e giustizia, e questi continuano da anni, l'ulteriore calo del mercato immobiliare e problemi legati all'acqua potabile. Bene, noi abbiamo finito, ci sentiamo domani, grazie per l'ascolto, buon weekend.